Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Oggi parliamo di mercato immobiliare, in particolare di quello delle locazioni degli affitti, perché nei giorni scorsi è stato diffuso il rapporto Nomis, ma solo affitti 2010, e sono emerse delle indicazioni molto interessanti. In Italia si va in affitto per necessità, difficilmente per scelta, a meno che non ci si debba stare per periodi di tempo limitati, e questo su per giù era una, come dire, condizione che conoscevamo. Le locazioni complessive sono il 18,9%. Contro una media dei paesi europei del 35%. In Italia vivono in affitto 4.700.000 famiglie, soprattutto con redditi medio-bassi, persone con meno di 35 anni, giovani, coppie senza figli e famiglie monogenitore. E la domanda di affitto ha ripreso a crescere, in particolare per piccoli immobili in aree semicentrali, arredati e con posto auto. Ricordiamo che il settore dovrebbe essere interessato a partire da gennaio da una novità fiscale molto importante, alla quale abbiamo già dedicato una trasmissione verso la fine di agosto: l'applicazione della cedolare secca al 20% sui canoni di locazione, con quello che viene considerato un discreto vantaggio fiscale per molti proprietari, ma anche un modo per combattere il nero. E tra l'altro vedo che già tra le prime considerazioni degli ascoltatori che arrivano su questo argomento, molte puntano proprio su questo tema, la piaga del nero che riguarda appunto ancora le locazioni. Allora noi cercheremo oggi di parlare un po' di tutto, ma soprattutto di capire anche se la crisi degli ultimi 3 anni, che naturalmente ha travolto, anche se ha retto molto meglio del resto d'Europa, il settore immobiliare italiano, quanto ha influito anche questa crisi sui canoni di locazione, dove gli effetti si sono fatti sentire in maniera più forte, dove invece non c'è stata nessuna ombra di crisi. C'è la città di Roma che vive la sua situazione sempre molto individuale, particolare, esattamente come succede a Milano, e quindi insomma quale anche situazione abbiamo a livello geografico in Italia. Allora stamattina abbiamo messo insieme le persone che si sono occupate della elaborazione di questo rapporto. Intanto la dottoressa Daniela Percoco, responsabile settore real estate di Nomisma. Dottoressa, buongiorno, benvenuta a Salva Danaio. E grazie. Ritorna anche con noi Isabella Tulipano di Solo Affitti, che già ci ha aiutato tante altre volte a comprendere un po' meglio questo mercato, le dinamiche, ma anche tutto ciò che attiene per esempio alla stesura regolare dei contratti di locazione, altro grande tema. Dottoressa Tulipano, buongiorno. Buongiorno a voi. 800 24 00 24 è il numero verde per le domande degli ascoltatori, 349 238 6666 il numero invece per i messaggi degli ascoltatori, quindi per i vostri messaggi. E direi però di andare a dare un'occhiata anche alla borsa questa mattina, perché abbiamo già avuto modo di anticipare nel giornale radio che la giornata appare piuttosto incerta, e insomma qua continua ancora a discutersi sul fatto se l'Irlanda e a questo punto anche il Portogallo faranno meno richiesta formale di accesso al fondo salva stati che è stato varato a maggio all'indomani della crisi greca, perché questi governi, soprattutto l'Irlanda, continuano a dire appunto di non averne bisogno. E invece, per stabilizzare un po' anche la condizione finanziaria generale, tutti i timori che ci sono per riequilibrare un po' il quadro, molti altri governi, come sapete, chiedono insistentemente che questi stati facciano ricorso a queste misure. Si svelerà sicuramente qualcosa di più dettagliato sera alle 17 all'inizio della riunione dell'Eurogruppo. Nel frattempo il mercato azionario, dopo aver resistito ieri, torna a scendere. Parigi perde l'1,7%, Francoforte lo 0,84%, Londra l'1,35%, Milano meno 1,37%. Le vendite sono molto forti stamattina. Sull'automatica il titolo sta perdendo il 6,58%. I titoli risentono dei conti dei primi 9 mesi annunciati ieri a borsa chiusa, risultati inferiori alle attese, con negli utili più che dimezzati. Bulgari perde 4 punti, abbiamo Mediaset anche stamattina in ribasso del 3,33%, Geox dopo la trimestrale continua a perdere in maniera copiosa e anche oggi meno 3, Tenaris meno 2,92, Impregilo meno 2,81%, 2,5 punti di ribasso per Buzzi, Fondiaria meno 2,35. Qua davvero non si arrestano i titoli con il rosso, con il segno meno davanti, e c'è tutta anche la parata dei titoli bancari a perdere in maniera abbastanza significativa. Chi si salva stamattina? La Galassia Fiat anche se adesso vedo che già l'entusiasmo si è ridimensionato anche su Exor e su Fiat. Exor più 1,16, Fiat più 0,22%. I titoli hanno ripreso a salire nonostante i dati sulle immatricolazioni europee siano pessimi, peggio del mercato, con una flessione del 32,7%. Però c'è speculazione per l'imminente cessione possibile di Magneti Marelli e la quotazione di Ferrari. Peraltro in mattinata il gruppo ha annunciato di aver esercitato la opzione a riacquistare la quota del 5% di Ferrari dal fondo arabo di investimenti Mubadala, spero di averlo pronunciato correttamente, però il fondo è questo. Euro su dollaro in flessione, l'euro per la felicità della Germania, 1,3578. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, parliamo di un altro mercato che è quello dei canoni di locazione. Vivere in affitto è meno caro rispetto al 2009. Lo rivela un'indagine di Nomisma in collaborazione con Solo Affitti, in base alla quale il canone d'affitto della casa costerebbe quasi il 10% in meno rispetto allo scorso anno. Naturalmente non dappertutto. Sono più economiche le locazioni a Genova, meno 8,3%, e a Napoli, meno 7,6%, Bari, meno 6,6%, e Bologna, meno 6%. L'affitto nelle grandi città, invece, come Venezia e Milano, rimane pressoché invariato o con ribassi intorno all'1%. Difficilmente in questo caso si percepisce la differenza positiva sul portafoglio, mentre è addirittura in aumento il costo dell'affitto ad Ancona, più 5%, e a Roma, più 3,5%. Quest'ultima in assoluto fra le città più care in fatto di locazioni. Ma quali sono i costi indicativi per affittare una casa? Affittare a Roma e Milano un appartamento medio costa al mese circa 1.000 euro, con una differenza di 50 euro a favore di Milano, che è più economica. A Firenze servono 700 euro, a Venezia poco più di 650, a Napoli 600. Le città con affitti low cost si trovano invece al sud. Catanzaro 430 euro, Campobasso 450, ma anche Perugia con poco meno di 500 euro al mese. 800 24 00 24, il numero verde per permettervi di intervenire in diretta, oppure scriveteci se volete al 349 238 6666. Inizio dalla dottoressa Daniela Percoco, responsabile settore retail, settore real estate di Nomisma. Stamattina sarà la pioggia, mi si impasta la bocca, speriamo di concludere degnamente questa trasmissione, però insomma mi piacerebbe capire intanto come è nato questo sodalizio in termini appunto di ufficio studi fra Nomisma e Solo Affitti, come viene condotto questo monitoraggio, perché credo che sia anche il rapporto più completo che in questo momento esista sul mercato, che riesce a monitorare in maniera così esaustiva il trend delle locazioni dei canoni d'affitto. Dottoressa Percoco. Sì, il sodalizio è nato già da un paio di anni, in quanto anche nel 2009 facemmo una specie di progetto pilota rivolto unicamente al mercato della locazione, però in Lombardia. Quest'anno abbiamo detto, abbiamo rodato la macchina e possiamo espanderci anche a tutta la penisola. La realtà del mercato della locazione ci interessava moltissimo perché noi siamo sempre stati più abituati a lavorare sul mercato della compravendita. Appunto, ricordiamo che oltre il 70% delle famiglie italiane ha la casa di proprietà, quindi era un po' questo il motore del mercato immobiliare negli ultimi anni. Mm-hmm. Però ci rendevamo conto che il settore della locazione fosse degno di una osservazione monografica, perché stanno nascendo dei trend sociali e demografici che rendono sempre più interessante appunto il segmento della locazione. Le famiglie sono più flessibili, si muovono per lavoro, per studio, si separano, si riuniscono e non possono essere in qualche modo stigmatizzate all'interno di immobili di proprietà. Quindi ecco, ci siamo avventurati su questo, su questo settore. La evidenza più forte che emerge dal rapporto di quest'anno è che in ogni caso, in una relazione, in un paragone in termini europei, dottoressa Percoco, il nostro è un paese di famiglie che sono invece profondamente affezionate alla proprietà e che affittano comunque malvolentieri, sia se sono proprietarie sia se devono cercare casa appunto per affittarla e quindi diventare affittuari, locatari. No, locatario è la persona che l'affitta, sì. Sì, questa è una realtà. Noi siamo più simili ai paesi mediterranei come la Spagna, la Grecia, il Portogallo, ma secondo quello che è la nostra lettura ci differenziamo dai paesi nordici in quanto al nord hanno una come dire, propensione al welfare, all'assistenza sociale molto più come dire, accentuata rispetto a noi. Ci sono fondi immobiliari sociali che investono in abitazioni e non c'è cosa che in Italia non succede ancora, non succede più, e quindi le famiglie si sentono comunque non si sentono obbligate a dover andare in proprietà, non sentono la casa come un qualcosa che devono assolutamente possedere, ma cercano di liberare il proprio capitale per altro tipo di investimento. Quindi c'è una struttura, un sistema economico profondamente diverso con appunto che parte un pochino più da lontano, e questi sono un po' gli effetti che si provocano sul mercato immobiliare. Infatti, come dice il vostro rapporto, rappresenta una peculiarità specifica nel nostro paese essere legati da tempo ad una cultura che identifica la casa come luogo rifugio, un nido in cui trovare stabilità e sicurezza. Nella solidità del mattone sembra proprio che gli italiani identifichino la solidità auspicata nella famiglia e nel lavoro. E però noi stamattina ci vogliamo rivolgere a quella persona invece che, volenti o nolenti, devono andare in affitto. Che quotazioni trovano in giro per l'Italia, insomma, partendo dalle macro tendenze registrate a Roma e Milano, ma se per lavoro ci si deve spostare altrove, che tipo di tendenza si sta manifestando? Tra l'altro, siccome negli anni passati abbiamo visto questa forte tendenza all'aumento nell'ambito immobiliare, sia in termini di quotazioni per metro quadro, per quello che riguardava le compravendite, ma anche i canoni di affitto sono andati di pari passo, ovviamente non c'è stato, come sapete bene, anche un'equivalente crescita dei redditi delle famiglie, e c'è stato anche un altro grande problema, che agli enormi canoni di locazione chiesti in Italia non corrispondeva in molte aree del nostro paese, succede soprattutto a Milano e Roma, un'altrettanta validità della qualità degli immobili appunto dati in affitto. Allora, poi, da tutti questi temi vorrei partire nella seconda parte della trasmissione. Non sono maleducata con Tulipano, la faccio parlare adesso in maniera esaustiva nella seconda parte di Salva Danaio, poi partiremo anche con le riflessioni dei nostri ascoltatori all'800240024. C'è già un ascoltatore di Brescia che vorrebbe intervenire perché vedo che deve pagare gli studi alla figlia a Venezia, e qua naturalmente ha subito qualche problema proprio in termini di canone che gli viene proposto, e qua vedo difficoltà a stipulare un contratto regolare. Insomma, quante altre situazioni di questo tipo ci saranno? A tra pochissimo. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, che questa mattina, prendendo a spunto il rapporto Nomisma solo affitti 2010, cerca di monitorare un po' quello che sta succedendo su questo mercato, pur partendo da un presupposto fondamentale, che il nostro paese, come per tante altre cose, vive una situazione radicalmente diversa rispetto al resto d'Europa. In Italia la quota di famiglie che vive in affitto è molto più bassa, al 18,9% rispetto alla media europea del 35%. Le motivazioni ce le stava spiegando la dottoressa del 35% degli altri paesi dell'Unione Europea. Ce le stava spiegando la dottoressa Daniela Percoco di Nomisma, fra le curatrici appunto di questo rapporto, oltre che responsabile per Nomisma del settore real estate. Dottoressa Percoco, prima di andare ad Isabella Tulipano di Solo Affitti, le volevo leggere una riflessione, perché lei prima ha fatto questo parallelo con le famiglie dei paesi nordici che non vivono il tema della proprietà della casa come un'urgenza indomabile della propria vita. E allora questo ascoltatore si chiede: vabbè, ma nei paesi nordici gli inquilini pagano regolarmente? Come tengono la casa? La lasciano libera quando devono? Quindi, insomma, abbiamo anche delle considerazioni sulla mentalità italiana che riguardano anche questo mercato. Che ne pensa? Io credo che in Italia ci sia un problema della certezza del diritto in alcuni casi, nel senso che parlando con diversi proprietari si possono verificare situazioni di morosità da parte degli inquilini e di tempi lunghi nel poter rientrare in possesso della propria casa. Questo di fatto all'estero non accade, sono un pochino più rigidi i regimi nel punto di regolazione dei rapporti tra i proprietari e gli inquilini. Pensi che questo tema è uscito anche ieri? Noi ieri ci siamo occupati del tema della mediazione che diventerà obbligatoria a marzo. C'era un ascoltatore che si chiedeva se potesse usare questo canale per risolvere una sorta di controversia che poi non è neanche così negativa con la persona alla quale ha dato in affitto la propria abitazione. Questa persona paga regolarmente e ha sempre rispettato tutti gli oneri, insomma le scadenze regolarmente, però questa persona vuole rientrare assolutamente in possesso della sua casa pur avendo rapporti assolutamente civili con la persona che gli ha affittato appunto l'abitazione, e lì così un po' ieri ci siamo chiesti anche qual è da questo punto di vista la modalità per regolare al meglio queste situazioni. Detto questo, Isabella Tulipano, se no penserà che l'ho invitata così solo per ascoltare noi chiacchierare, quanto mercato immobiliare, quante case sarebbero teoricamente secondo lei libere nel nostro paese e che volontariamente, proprio per questi problemi di cui abbiamo parlato anche adesso, i proprietari non affittano perché poi appunto non avendo certezza anche della regolamentazione di questo settore temono di non poter più liberarsi di inquilini che non pagano, che non sono così regolari anche, che ne pensa? No, che sì, ne pensa, diciamo anche che, avete una statistica anche su questo? Sì, diciamo che noi raccogliamo giornalmente le titubanze da parte di molti proprietari che preferiscono tenere l'immobile sfitto piuttosto che appunto impegnarsi con un inquilino per almeno 4 anni, insomma, se si stipula un classico contratto di 4 anni più 4, o anche per 8 anni, visto che alla prima scadenza si può dare disdetta solo per determinati motivi che sono stabiliti dalla legge. E diciamo che la questione è questa, è che in Italia comunque la locazione è in mano praticamente ai privati. Dalla nostra statistica nel report si può leggere che il 90% di abitazioni concesse in locazione sono appunto di privati, e quindi è quello che dicevamo prima, manca proprio la parte di Stato che è proprietario di immobili, che può mettere a disposizione soprattutto di quelle fasce di reddito che magari hanno difficoltà ad accedere al mercato libero delle locazioni. C'è anche una questione legata a quante tasse pago, è quello per cui l'aspettativa nei confronti della cedolare secca è molto alta, perché l'altra obiezione che ci fanno spesso i proprietari è: se devo affittare un immobile con rischio appunto di tenerlo occupato per 8 anni e in più la metà di quello che pago comunque finisce nelle tasche dello Stato perché se li riprendono sotto forma di tasse, è ovvio che ci penso. Eppure il mattone è la forma di investimento che gli italiani preferiscono in assoluto, proprio in confronto a quello che può essere l'andamento ballerino delle borse. È ovvio che investire nel mattone vuol dire investire in una forma di investimento abbastanza sicura e redditizia. Questo perché appunto, nonostante la crisi che c'è stata nel mondo proprio del mercato immobiliare, in Italia le quotazioni si sono, è vero, un po' abbassate, sì, ma però parliamo sempre comunque di cifre molto basse, quindi chi ha investito anche semplicemente 3 anni fa acquistando un immobile a un prezzo molto alto, oggi anche rivendendolo, mettendolo in affitto, comunque guadagnerebbe un po' meno, ma parliamo di poco, insomma. Non quei guadagni a 2 cifre che ci sarebbe potuti aspettare magari proprio nel momento clou della crescita del mercato immobiliare italiano, però sicuramente è ancora un investimento che può segnare, che può dare appunto qualche rendimento interessante. Allora, direi di cominciare a sentire anche i nostri ascoltatori, perché ci sono delle riflessioni piuttosto interessanti. Allora, cedolare secca, tra l'altro, di cui abbiamo parlato, che dovrebbe contribuire anche all'emersione dal nero di questo ambito, in questo ambito. Sentiamo Tindaro da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Tindaro, lei non è proprio bresciano però, no, con questo nome. Io sono siciliano, però è da 20 anni che abito Brescia. Ci dica. Niente, io ho una delle figlie che studia a Venezia e divide un appartamento di 3 camere con altre 5 ragazze e ogni ragazza paga 230 euro a testa. Escluso le spese, perché poi ci sono spese che incidono dai 40 ai 70 euro al mese. E tutto ciò in nero, perché il padrone di casa praticamente non fa un contratto regolare. Ma mi scusi Tindara, quando lei ha cominciato ad informarsi per poter trovare il posto giusto per sua figlia, per farla stare naturalmente tranquilla, magari vicino all'università, ha cercato anche qualche soluzione regolare? Voglio dire, e se l'avesse, se magari l'ha individuata sul mercato, era molto più cara per esempio del prezzo che è riuscito a spuntare in questo caso? Ecco, infatti, questo appartamento è vicino all'università, praticamente a 100 metri, per cui come comodità è ottima. Però girando così, perché poi mia figlia inizia a girare, a vedere un attimino, i prezzi più o meno sono quelli. E comunque chi fa un contratto non lo fa più di 300 euro al mese, nel senso che incassano magari 1.500 o anche più, però con un contratto fasullo, ecco, di 400 euro al massimo. Sì, Tinder, io la ringrazio. Volevo ritornare un attimo ad Isabella Tulipano. Certo che il mercato dei canoni di locazione e legati al settore universitario e gli studenti che si muovono è un comparto tutto a parte che forse meriterebbe una nuova rilevazione a sé stante. Qui veramente è una giungla, perché questo va riconosciuto. Come avete fatto anche a monitorare questo ambito, dottoressa Tulipano? Sì, diciamo che nel nostro report prendiamo in considerazione comunque quelli che sono i canoni di locazione delle abitazioni, quindi suddiviso per tipologia di abitazione. È ovvio che le città più care risultano poi città effettivamente frequentate anche da studenti universitari, quindi Roma, Milano, Firenze e Venezia, che sono città in cui sicuramente ci sono moltissimi studenti universitari, ed è ovvio anche che la nostra rilevazione comunque tiene conto di quelli che sono i dati forniti dalle nostre agenzie, e quindi, come dicevamo in una trasmissione tempo fa, le nostre agenzie ovviamente registrano i contratti, quindi fanno quelli che sono contratti regolari. E tra l'altro, appunto, l'emersione del nero legata agli studenti universitari dovrebbe essere molto facile. Nel senso che a noi è capitato anche in città di sapere di università che hanno poi, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, fatto una sorta di ricerca, per cui hanno mandato agli studenti universitari un file da compilare in cui si dichiara quello che è l'abitazione in cui si abita e quindi il proprietario, per cui moltissimi proprietari in realtà hanno ricevuto già delle multe perché affittavano in nero, quindi diciamo che ci deve essere anche una sorta magari di corresponsabilità. Infatti, anche di chi, esatto, riceve, che magari secondo me qualche volta qualche proprietario preferisce correre il rischio e magari sì, stipulare un contratto d'affitto regolare con uno studente che però poi si rende anche un pochino, non dico connivente, ma disponibile anche così a chiudere un occhio sulla regolarizzazione completa di questo rapporto commerciale, e magari questa casa si riempie comunque di persone, magari una casa che avrebbe posti letto per tre persone improvvisamente diventa una casa con sei posti letto, e quindi chiaramente insomma ci sarebbe da affrontare questo tema in maniera molto più approfondita. Direi però di rimanere sul tema dei canoni che si registrano adesso nelle principali città italiane, se anche così magari per dare qualche indicazione alle persone che magari, non lo so, devono spostarsi, andare ad abitare in un'altra città, che cosa possono trovare. Marisa da Napoli dissente dalla percentuale che abbiamo dato sul calo medio degli affitti nel capoluogo campano. Marisa, buongiorno. Sì, buongiorno. Perché? Vi ringrazio tutti per l'opportunità di dissentire su questo numero. Perché io, causa ristrettezza economica, sono dovuta andare in periferia al confine con il mio comune di Napoli, dove risiedevo in zona stadio e zona università. E dico che anche per quanto riguarda il mercato delle compravendite, che la mia zona non è mai scesa di prezzo, anche per la locazione in oggetto. Io 2 anni fa per un trilocale a scadenza contratto avrei dovuto pagare un canone di affitto di 950 euro mensili. Ah, però. E le dico, per cui sono stata costretta ad andare via di casa, e tutt'oggi che io continuo a cercare casa nella stessa zona, per il bilocale a piano intermedio viene richiesta una locazione di 750 euro mensili, mentre se scendiamo a piano terra possiamo avere il trilocale a 750 euro al mese. Il trilocale piano alto viaggia dai 900 ai 1000 euro mensili. Ecco perché io chiedevo dove è stata questa, senso... come è stato possibile segnare questo meno 7-6% rilevato dalla statistica appunto di Nomisma solo affitti. La chiudo brutalmente, Marisa, solo perché vorrei rispondere in maniera articolata alla sua riflessione, però dobbiamo farlo dopo il suggerimento per chi è in viaggio tra pochissimo. Allora, Daniela Percoco di Nomisma, non ho la presunzione, ma ce l'ho quasi, che lei conosca a menadito tutto il rapporto che avete elaborato. Però insomma, su Napoli, ha sentito quello che ci ha raccontato la nostra ascoltatrice? Certo, affitti da fare invidia anche alle zone mediamente, non dico più care di Milano, ma insomma siamo là, eh? Sì, infatti come emerge un po' dalle nostre analisi, dai nostri numeri, Napoli è direi l'unica città del sud che supera come quotazioni medie la media italiana, quindi è un po' la maglia rosa di quello che è il mercato immobiliare del sud, che notoriamente è meno costoso rispetto a quello che non accade al nord piuttosto che a Roma. Quindi c'è questa particolarità su cui insomma già il primo punto di partenza. Seconda questione, noi quando parliamo di variazioni si tratta di variazioni medie che tengono in conto quello che accade nelle zone più pregiate piuttosto che non nelle periferie, le zone meno servite, più decentrate. Quindi nella variazione che noi conteggiamo probabilmente ci sono tutte e due queste tendenze, dove le zone migliori invece tengono le proprie posizioni perché c'è comunque una domanda sostenuta, sono zone dove l'offerta può essere anche abbastanza limitata. Invece altrove, dove probabilmente c'è meno richiesta e l'offerta invece abbonda, lì le quotazioni cedono di più. Ed è sempre il problema che emerge quando si parla di medie, perché le medie sono tanti casi specifici che vengono a essere conteggiati tutti nello stesso pentolone. Altrimenti non parleremo sempre della media di Trilussa. Allora, c'è chi in Italia appunto mangia due polli, chi nessuno, la media è quella. Allora, in Italia. Vabbè, allora, tra l'altro, Isabella Tulipano di Solo Affitti, trovare la casa in locazione, dice il vostro rapporto, è abbastanza semplice e veloce, sempre secondo la vostra ricerca, basterebbe un mese e mezzo di ricerche per gli appartamenti nuovi, per le usate serve un po' di più. Mentre per l'ambito delle compravendite immobiliari, la crisi ha portato ad un allungamento dei tempi di chiusura delle trattative di almeno 6 mesi, invece per trovare una casa in affitto i tempi sono un po' più rapidi? Sì, i tempi diciamo che sono abbastanza rapidi, parliamo appunto tomando le medie di 2 mesi e 10 giorni circa, tempo che si riduce nel caso in cui si affitta invece un immobile nuovo, quindi con tutte le peculiarità richieste. Questi tempi sono molto più veloci rispetto alla compravendita, anche perché parliamo di un'offerta che oggi è molto ampia. Tutti quegli immobili che magari non riesco a vendere a questo punto, piuttosto che tenerli liberi, a quel punto posso decidere di metterli in affitto, e quindi parliamo di un'offerta molto ampia per cui gli inquilini hanno un'ampia scelta e scelgono tra l'immobile che gli piace di più o che ovviamente ha un canone di locazione più adatto al loro portafoglio. Infatti. Allora andiamo a Genova adesso invece, perché c'è una bellissima domanda di Giovanni da questa città che in realtà avrebbe dovuto costituire proprio il bel presupposto fondamentale della nostra trasmissione. Giovanni, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo capire, cioè i parametri per un equo affitto, perché a questo punto, visto che il mercato è così selvaggio, quindi i riferimenti sono veramente pochi. Ecco, vorrei capire, cioè una metratura, se in base alla metratura, capisco in base alla zona, però mi pare che ormai sia diventato un mercato, cioè che i proprietari diciamo abbiano fatto un po' cartello, perché magari i prezzi sono saliti, allora in qualsiasi zona i prezzi salgono, quindi era questo che vorrei capire. Infatti Giovanni, sa, poi c'è anche un altro aspetto, magari qual è anche il valore minimo che noi che siamo interessati magari per tutta una serie di circostanze ad un appartamento attribuiamo a quel posto dove vogliamo andare ad abitare. Magari un posto ci serve a tutti i costi perché è vicino alla nostra famiglia piuttosto che ad altre persone a cui vogliamo bene, magari siamo disposti a pagare un po' di più. Non è sempre detto che sia il proprietario che faccia il gioco di tutto. Qualche volta anche magari l'inquilino attribuisce un valore diverso ad una casa per una certa specificità di esigenze. Detto questo, però, Daniela Percocco, prendendo il vostro rapporto, potrebbe trovare qualche riferimento, Giovanni, per esempio proprio per le quotazioni? Certo, abbiamo fatto un'analisi abbastanza dettagliata città per città, suddividendo le zone della città, quindi zona di pregio, centro, semicentro, periferia e pezzatura dell'immobile, quindi monolocale, bilocale, trilocale e quadrilocale. Da questi, diciamo, dalla combinazione di queste caratteristiche, poi abbiamo dovuto per forza estrarre un dato di sintesi e quindi stiamo parlando di media per questa ragione, ma chiaramente se si va nel dettaglio si amplia la forchetta rispetto al numero secco, si dice il canone medio di una certa città è, ma c'è un campo di variazione, un campo di oscillazione piuttosto ampio a seconda della città. E certo, ma magari in una stessa via, due case che sono appiccicate, una costruita secondo i criteri più avanzati della domotica, dall'altra parte una casa che invece ha qualche anno in più, che magari va ristrutturata, è chiaro che possono avere, non lo so se è una considerazione banale, Isabella Tulipano, due canoni completamente diversi e anche molto distanti. Diciamo che nella nostra ricerca abbiamo provato a chiedere anche qual è il gradimento dei servizi, quindi che caratteristiche deve avere l'abitazione locata per preferire uno piuttosto che un altro appartamento. E diciamo che gli italiani sono attenti sicuramente all'arredamento, quindi un immobile arredato e arredato anche con gusto fa preferire questo o l'altro. È importante soprattutto se pensiamo a un target giovane, la connessione a internet, è fondamentale la presenza di un posto auto e la vicinanza ai trasporti quando parliamo di grandi città come Roma e Milano. Purtroppo non sembrano ancora molto sensibili gli italiani all'efficienza energetica, quindi è un dato che ancora non viene preso in considerazione. Sì, per la casa nuova, però magari hanno sfruttato tanto i vantaggi degli incentivi fiscali 55% per riqualificare anche dal punto di vista energetico le proprie abitazioni, quindi qualche volta dipende proprio dall'entità dell'investimento. Rosciani, è uno schifo, mi scrive un ascoltatore, parlo da proprietario da maggio 2009 che il mio inquilino risultava moroso, sono entrato in possesso dell'appartamento ad aprile 2010 con 1.800 euro di spese legali, anche a mio carico spese di foto e stivatura in deposito dei suoi oggetti personali. Ecco come finisce, ecco perché qualche proprietario è restio ad affittare la propria casa. Quante case sfitte, si chiede in realtà Walter, sono affittate in nero? Anche questo altro bel tema. L'ultima domanda, Mario da Roma, rapidissimo, in 10 secondi perché poi devo salutare. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Vada dritto alla domanda che devo salutare. Sì, sì. La cedolare secca che potrebbe essere molto interessante. Sì. A che punto è? Già legge in vigore oppure no? Grazie Mario. Dottoressa Percocco, allora un bel capitolo della vostra relazione, del vostro rapporto dedicato a questo argomento. Siamo pronti per farla partire a gennaio? Ho un po' di dubbi, nel senso che era apparso in agosto un decreto, i primi giorni di agosto, sembrava che le cose fossero in qualche modo già avviate, in realtà da allora non ne abbiamo più notizia, perché non credo che per il primo gennaio possano essere così fatti tutti i passaggi dovuti. Dobbiamo attendere ancora il parere dei sindaci, dei comuni, perché su diciamo questa normativa, questa tassa andrà inserita all'interno di una riforma molto più ampia dell'IRPEF, anche l'IRPEF e quindi le addizionali. Esatto, e poi dovrà passare alle commissioni di Camera e Senato, insomma dovrà fare tutta una serie di passaggi. E allora quando saranno pronti ne riparleremo. Grazie a voi per essere stati con noi, Daniela Percocco ed Isabella Tulipano, ci sarebbero stati tanti altri argomenti da affrontare, ma c'è pure tutto l'ambito commerciale legato agli affitti che gli ascoltatori ci chiedevano. Ci ritorneremo al più presto. Intanto, buona giornata.